questa notte vestita di lacrime d'argento. È una notte che tutti aspettavano da tanto. E la radio trasmette una musica di quelle fatte apposta perché si innamorino le stelle. Due finestre si accendono e sbattono le ciglia. E la luna va dietro una nuvola e si spoglia. Il tuo viso ritorna e mi penetra nel cuore. Ma chi tu questa notte per essere d'amore, d'amore? E penso a te, perché tu sei la cosa più bella. E per questo che io penso a te, perché in cielo è caduta una stella. Mi accorgo che io penso a te, è un pensiero che non fa rumore, un pensiero d'amore. E penso a te, anche in mezzo casino di gente succede che io penso a te, perché tu sei una cosa talmente importante che io penso a te, è un pensiero che non fa rumore, una prova d'amore. Meno male che avevo una lacrima da parte. Tu mi manchi ma devo gridartelo più forte. Una zingara ha detto non piangere destino. Questo amore non riesce a rubartelo nessuno. Quando torno vedrai che ne parlano i giornali. Perché i due che si amano sembrano speciali. E alla radio daranno una musica di quelle fatte apposta perché si innamorino le stelle, le stelle. E penso a te, perché tu sei la cosa più bella. E per questo che io penso a te, perché il cielo è caduto una stella. E mi accorgo che io penso a te, è un pensiero che non fa rumore, un pensiero d'amore. E penso a te, anche in mezzo a un casino di gente succede che io penso a te, perché tu sei una cosa talmente importante che io penso a te, è un pensiero che non fa rumore, una prova d'amore. Penso a te, perché tu sei la cosa più bella. Per questo che io penso a te, perché il cielo è caduto una stella. E mi accorgo che io penso a te, è un pensiero che non fa rumore, un pensiero d'amore. E penso a te, anche in mezzo a un casino di gente succede che io penso a te, perché tu sei una cosa talmente